Io sono ottimista perché il rischio che si sta paventando, come dire, ha fatto aprire gli occhi, mi sembra, ai governi, non solo quello greco, sulla necessità di fare un consolidamento fiscale rapido e efficace, anche se naturalmente doloroso, ma qui si pagano errori passati. Quindi l'euro a 1,33 lo vede più come un elemento così giornalistico, ma non come un elemento di preoccupazione? Ma non è che il numero 1,33 dell'euro mi preoccupi più di tanto, teniamo anche conto del fatto che l'euro è un po' più debole rispetto a qualche mese fa, qualche aiuto aiuta le esportazioni europee e quindi la crescita e quindi in qualche modo il debito stesso. Quindi per adesso l'euro si è indebolito ma sta rimanendo più o meno stabile a livelli più bassi. Quindi francamente non è una immediata fonte di preoccupazione. Cioè lei dorme tranquillo anche con l'euro 1,33, diciamo. Sì, dormo tranquillo.